Lazio, fascisti bro, stile Anassi. Muo' l'MC che fa rap, perciò è spacchio. La gente pensa all'hip hop che sia un ballo. La gente dice che sa e non sa un cazzo. Se c'è un motivo per cui spingo questa merda, è che l'onore di un b-boy non si cancella. È una missione per i bro, la vedo spessa. C'è da salvare l'hip hop, ciò che ne resta. Torino Randaz, fine del gioco. La razza forgiata con il ferro e con il fuoco. La faccia, gli occhi della realtà. L'hardcore, gente che cade e si rialza fino al suono del gong. E io fake, fake, fake, meglio che skinny. Meglio che vai, spegni il micro e cammini. Parli di strada anche se non la vivi. E fai il cash agendo indisturbato nei tuoi raggiri. Tu non giochi, non con noi, non coi miei soci. Son fuori, c'è Shaki al mic, legna come pochi. Ti scoppi, c'è tanta di quella fotta che scoppi. La vedi, la senti, è nell'aria, lei c'è, la tocchi. Io ti consiglio di coprirti, Merz. Non avvicinarti troppo e stai attento al jet. Qui no saga, la verità chiedi ai miei raga. Qualcosa che per noi è sacro non si sconsacra. Fanculo mercenari businessman. Questa roba è pesa vera, quindi fatti un flash. Fatti un test, può avere inizio il match. Tienti pronto per l'impatto dopo il microphone check. B-boy, siamo soci. Vogliono occultare la tua fede, sono fuori. C'è la mia gente sotto il palco. Randaz, zero fake, sì chi sei, mani sui coglioni. B-boy, siamo soci. Vogliono occultare la tua fede, sono fuori. C'è la mia gente sotto il palco. Randaz, zero fake, sì chi sei, mani sui coglioni. E la mia gente, un clan di bestie controcorrente. Niente più da mettere in gioco, nulla da perdere. Fanculo merda, io sono un b-boy. E chi è contrario, parli adesso, taccia per sempre. Che siamo un popolo di Randaz, cani randaggi con la rabbia. Tanto la carogna non manca, ma accompagna dalla nascita. È come la terza gamba, cioè sta spranga. Se vuoi sfida, sopra di un palco fino all'ultima rima. Se vuoi strada di notte aspettando che tutto taccia. Senti solo il rumore delle mie nocche contro la tua faccia. Che si racconti, che si sappia, si stronzi sono un branco di piragna. Fuori da ogni moda e da ogni massa, fieri di essere Randaz. Randaz, a testa alta. B-boy, siamo soci. Vogliono occultare la tua fede, sono fuori. C'è la mia gente sotto il palco. Randaz, zero fake, sì chi sei, mani sui coglioni. B-boy, siamo soci. Vogliono occultare la tua fede, sono fuori. C'è la mia gente sotto il palco. Randaz, zero fake, sì chi sei, mani sui coglioni. B-boy, siamo soci, vogliono occultare la tua fede, sono fuori. C'è la mia gente sotto il palco. Randaz, zero fake, sì chi sei, mani sui coglioni. B-boy, siamo soci, vogliono occultare la tua fede, sono fuori. C'è la mia gente sotto il palco. Randaz, zero fake, sì chi sei, mani sui coglioni.